come sempre. Capita, allora questo buono è stato un po' la tua. Non dico una nave, ma almeno un piccolo yacht, tu la puoi usare lì. No, basta con le navi, basta. Basta con le navi, no? Allora, se vuoi un camper nuovo, bella un camper nuovo. Sì, un camper nuovo ci sarebbe. Buonasera, Eugenio! Sì, ciao! Ciao, ciao, ti saluta troppo. Ma la prego, non potevo rispondere. Stavo parlando con una... E se fammi mettere i cannocchiali per vedere, vai! Andà bene, mettiti il binocolo se lo vedi. 9-10, giusto, centratissimo, 9-10. Questo qua è sempre il Galaxy Saturn Eco che è ritornato a casa. È perfetto, la radio è bella, molto bella, chiarissima. È buono per la truffa. Mi invece se non sei dove buttarlo, buttalo sotto casa. Che cosa? Quel gas. Già sai, non è lui un galas. È il mio amore questo. E tu sai che ce l'hai con il iPhone? Sergi? Quale? Non avevi il iPhone tu? Quando con tutti quei tasti ti esci fuori a gambo per farlo funzionare. No, mica ce l'ha questo qua. Ma ci vuole niente per farlo funzionare. Questo qua si torna continuo. Ce l'ho anch'io, il 789 della Sommercamp, che è uguale, dai. Non è di diversa marca, però è uguale come radio, è uguale. Compro anch'io. Uranus, sì, Uranus, sì, è vero. E vabbè, parte da 25 e arriva a 30, eccetera, eccetera. Sì, è perfetto, è perfetto. Sì, sì, sì. Lo so, ce l'ho anch'io, 789. Il mio è 789 della Sommercamp. Sono qua con la carica, devo guardare un po', lo faccio così, tanto per cambiare. Dai, sì, però che quelli vanno bene, cosa cambi? Cosa preoccupate magari di questa cosa? Ma io lo puoi portare, guarda che ne più nemmeno gara se dire, o Gianni, quello lì, l'Uranus, non è altro che il gara, sicuramente in versione compatta, no? La macchina, però il gara ha lo stesso modulo tutto. Naturalmente a parte il doppio smitter eccetera eccetera, no? E a me la si casa, vabbè, no, l'ho avuto anche io, Giulio, ce l'ho avuto anche io, quello è un venuto a poco, non ce l'ho adesso, ma l'ho avuto anche io, non mi piace perché sono la frequenza e non c'è canale e devi stare sempre a mettere la frequenza. Sì, che ci sono i canali, cosa no? C'è il frequentimetro e i canali, anche il numero dei canali, c'è tutto, c'è già. E parte da 25 e 500, mi sembra, e arriva fino a 30, o addirittura anche oltre 30, 32, boh, non me la metto più manco. E non c'è il canale, c'è il pericolo che non è aperto. Dove ha il numero dei canali? Lo sono io. Ma sono io che non sono riuscito a fare lo schermo del display. Oh, a noi c'è la sua frequenza. E anche lui era la casa. No, io quello che io. Quando ti arriva, sai chi era prima? Già. Ti ricordi? Quando li usi, come si chiama? Che non me lo ricordo più. Vabbè, prima era suo. 789 Sommercamp. E c'è anche il numero dei canali. Oltre alla frequenza c'è anche il numero dei canali, tranquillo. Tonino sei c'è. Tonino, sì. Tonino, ma il nominativo com'era? Ma c'è proprio il nominativo di Tonino. Sempre Tonino l'ho chiamato. Ok. Sì, Tonino, sì. Che l'avevo dato a Emanuele, l'avevo dato lui. E poi Emanuele l'ha dato a me. E io ci ho questo automobile sopra il campo, c'è scritto sopra il coppicchio, sopra 789, cioè 789 sopra il campo. Lo stesso apparecchio con una marca di presa, io non ce l'avevo sopra perché non ce l'avevo un'altra marca, e poi era paiente. Appunto, sì, l'apparecchio è sempre quello, ma voglio dire, come coso, come il modulo interno, il circuito eccetera, è esattamente quello della gara, perché ha stessi componenti, stesse finali eccetera eccetera, solo che in versione da mobile, no? da base mobile, non da base mobile, da base auto, dai. Il garage ha il suo aspetto, c'è poco da fare. Per me il garage è uno dei migliori, se non il migliore apparecchio italiano, dico, perché quelli tipo DAC eccetera eccetera sono americani, ma dico, gli apparecchi che abbiamo qua è il migliore che io ho visto. C'è questo qui e poi c'è l'altro che si chiama, se non mi ricordo, che però non ha gli spinter, eccetera, non c'ha altro centimetro, ce l'ho sulla propria lì, non me lo ricordo, quello dorato. È grosso, molto grosso però, è un barraggione, ma io non ho problemi, perché io ho il mobile, ci sta benissimo, non bene, Giulio già lo sa com'è. Lo so, l'ho avuto anch'io il garage. Qualche anni fa l'ho avuto anch'io, il garage sta per me. E all'interno ci sta anche, volendo, ci sta anche un vignaretto, Gianni, ci puoi mettere anche dentro, basta saltare a fare il lavoro, metti di mangiare la carcassa e lo metti alloggiato in un angolo e ci sta anche il vignaretto, il 747. Sì, io lo so, ma non c'è bisogno di metterlo in terra, si può mettere anche esterno. Non è che sia, non c'è nessun problema. Prendendo un apparato adesso mi prenderei il garage turbo, troppo bello. A me mi piace meno quello, vedi, il garage turbo mi piace meno di questo qui mi piace di più. Sì, ma a 100 watt il garage turbo però, quello è forte, quello è 100 watt. Quello fa 5 e 100 watt di carico, da 5 a 100, è bello, è bellissimo. Ce l'aveva Sandro Tigre, perché non te l'ha fatto bene. Chi? Sandro, ce l'aveva il portocollo, Sandro Tigre. Ma non l'ho neanche più visto, mi sono affiancato. Stavo in lavoro, io ogni tanto senza il telefono, anche da poco, di Natale, ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Ma non modula più, prima era privato, lui altro, adesso non modula più. No, ormai ha venduto tutto, non ha più niente. Forse gli è arrivato un baracchinetto e lo usa in campagna. Quando va in campagna magari qualche volta glielo usa, ma raramente però, Perché no, ora non so neanche se abita dove sta per cui, perché non ci neanche più a te. È tutto a torto, tutto, non ha più niente, si è disfatto di tutto, forse gli è rimasto solo un baracchino che c'era in campagna, perché mi ricordo dopo che aveva eliminato tutto, qualche volta l'ho sentito quando era in campagna, tutto lì, ma niente di particolare. Lo so, si è stancato evidentemente e si è venduto tutto. Lo sapevo, non avevo solo garage tubo, avevo le apparecchiature belle, anche professionali, di lusso, bella, ma bella veramente, bella, un 950 va via e poi bella dopo. Ma a me non mi interessano i game, queste cose qua, mi piace il garage tubo, prima o poi me lo compro su internet, sono qualche parte non lo prendo. Gianni, mica è un cliente che è disposto a comprarsi il tuo garage. Ti mostro il cellulare. Ma quello lì Gianni non è turbo. No, quello lì non è turbo, quello lì è normale. È Saturn Echo. ma il turbo, lo so, già ci sono, sì, sicuramente ci sono, ma si sa in che condizioni sono adesso questi usati qua. Lo so, perché a Roma si trovano, sicuramente si trovano, magari te lo fanno anche pagare abbastanza, ma lo sai quanto costava nuovo? Allora c'era la lira, no? Quando è uscito quello c'era la lira. Ma sai quanto costava un nuovo? Lei costava più di un milione e 200, una cosa così. Sì, adesso li sto cercando, già sei fatto pagare, adesso 5-6. Sì, beh, sicuramente se li fanno pagare, minimo, se non trovi adesso, minimo, ne vorranno 500, minimo. Gianni, quello era bello, quello era forte, solo che non era omologato. Oh, vabbè, Gianni Melogallo è omologato, è per quello, di Saturnecco. Però è bello. Saturnecco costava 749.000 allora, in quegli anni, quando è uscito. Ma sto parlando di 25 anni fa, più o meno. Comunque sono sempre gli stessi, ci sono sempre gli stessi. Sì. Già, ne riprendi. Guarda la telefono, e quello era la muro di questo telefono, andava a Fasiru. Sì, lo so che sono sempre gli stessi oggi. Si sa. Sarà bello. Però c'era anche l'altra versione, adesso non mi ricordo come lo chiamano. Però ci mancava uno switcher, ci mancava, ce n'era solo uno. Era bello, era lo stesso apparecchio mio, era lo stesso apparecchio, non è che era molto diverso. Però ci mancava uno smitter, anche che ne aveva due, ne aveva uno. L'ala 555. Forse sì, forse. Adesso non me lo ricordo io di preciso com'era quello. Però hanno fatto anche quella versione lì. Gianni, finita le telefonate. Bello, bello, ce l'ho di fronte, bello. È bello. Le maniglie ci sono? Sempre? Tutto è perfetto, questo è addirittura nuovo. Apparentemente magari è nuovo, certo che è nuovo. Poi bisogna vedere dentro com'è. Spara il pezzo com'è, Luigi? Quanto lo stanno dando? Com'è? Quanto lo stanno dando? Era cellulare. Lo so che era il cellulare, cosa potevi essere? No, a Eugenio gli ho chiesto, quanto lo stanno dando quel garage, Eugenio? 500. E ci sono pure il gabo, so. Con 500 invece un capo, amici, vero già? Ascolta, io ho sempre questa opinione qua. Con un 747, in realtà che il 747 andrà sempre con 100 volte lo stesso. Perché spendete quei soldi lì? Infatti, ma è quello che dico anch'io. Tu hai ragione. Però c'è da dire questo, con quei soldi c'è un capo, o già, è una musica. Vabbè, ci sono apparecchi tipo i Midran, quelli modificati che si pagava anche 450 euro, però è solo una soddisfazione di prenderti quel tipo di apparecchio se ti piace. Capo, andiamo a segnare adesso, Giulio. Ecco, quello, sì. Sì, è partito il dottor, è questo che mi hanno mandato adesso al telefono, mi hanno mandato delle fotografie, il 200 GTL, sono da ridurre, e lui ha. Guarda adesso il segnale a vedere se c'è il canottiere. 9 più 15 mi sono sembrati, vuoi dire prova? Sì, prova a vedere bene, guarda, 1, 2, 3, 4, 5. 9 e 18, quasi 9 e 20. Adesso si può ragionare. Forse è interessante. Guarda, io adesso sono col galascio turbo, Eugenio. Col turbo? Capra, l'ho turbato io però. E lo manessi, e cosa lo fa? La stessa cosa. Fuori. Sei qua ore del massimo, mi è già 200. Oggi come oggi non più di quant'altro. Giulio, non stavamo così perché non se ne trovano più. Stava diminuendo, capito? Quindi li stanno dando di più. Io faccio il giro da tutte le parti solo per questo lì. La so già, d'accordo, sono d'accordo con te, non se ne trovano, o chi ce l'ha magari se lo vuole anche tenere, però quando tu pensi che oggi con 300 euro ti prendi un capa, per dire no, un 140 te lo prendi, altro che guarda di stato un eco, Lo so, vabbè, sempre dipende da come la pensa la persona. Se vi piace quell'apparecchio si prende 140, ma si prende il Galaxy Saturn Echo che piace chi sa. Questo sono d'accordo con te, questo sì, i gusti sono gusti, certo, quello sì, però cioè, non si può spendere secondo me una cifra del genere per comprare un baracchino vintage, perché quello è vintage, è l'apparecchio di vita del cane Grammy, e anche di più. Per cui tu mi dirai, ma proprio perché è antico che costa così? No, non è quello il discorso. Con 300 euro ti compri un 140 tranquillamente. Guarda, è anche discreto, anche io sempre condizioni, perché ce ne sono tanti. Io li ho visti al computer, li ho visti e ce ne sono tanti. Poi tu mi dirai, ma è l'incognita, ma funzionano bene, ma anche per il garage è la stessa incognita. Funziona bene anche quello? Sono apparecchi da stampa, chiaro, lo giuro, sono tutti apparecchi da stampa. Ieri mi stava dicendo, Fabrizio mi stava dicendo che praticamente gli ha cambiato il transistor, però nella parte elettrica c'era qualche altra cosa della tensione che non andava bene, gli ha cambiato diverse cose perché stavano consumando, a furia di usurarli, di usarli si usurano, c'è poco da fare. Beh, è normale, no? Tutti i componenti elettronici hanno un certo numero di ore per usarle, poi passate magari 10.000 ore per dire e cominciano a fare le bizze, ma è normale, no? Tutte le cose sono comunque così. Anzi oggi, le cose che stanno costando oggi, sto prendendo il caso per dire, sono una lavatrice, tanto per fare un esempio. Uno se la compra un altro, quando finisce di pagare già è passata, è già da buttare, e dovrebbe ricomprare un altro. Oggi è così, prima magari si costruiva in maniera un pochino più seria, ed è per quello che durano tutti quegli anni. Però prima o poi la fine arriva per tutti gli elettrodomestici in genere, tutte le radio, eccetera. Allora io ho una lavatrice Whirlpool che mi si è rotta praticamente l'albero motore, quello che fa girare lo blocco. E non l'ho cambiata la lavatrice, anche se ci ha speso 200 euro, ci ha dato in acciaio quella lavatrice lì. L'ho pagata una porca di soldi. E mi ha detto il tecnico, se vuole la può cambiare con lo stesso tanto, però quelle che fanno adesso sono tutte plastica. Beh, da lì cosa vuole fare? Se è cambiato questo pezzo di durata, 10 anni questa lavatrice, che così non rimbalzi di più. Non so, ad esempio io ho un cancellatore, matita, che è di 710 watt, mi sembra che sia. Però senza esagerare ce l'avrò minimo 20 anni. Intanto è nuovo come cosa, e mi si era bruciato perché l'ho usato per impastare il cemento con la frusta, no? Ho attaccato la frusta e l'ho usato per quello, l'ha scaldato e si è bruciato. L'ho fatto riparare, 80 euro mi hanno preso per ripararlo. Però tu mi dirai, ma oggi magari con 130, 150 euro un tassellatore se lo trovi nuovo. Sì, ma non è il mio, non è compreso che non è il mio. questo, perché ti sto dicendo questo? Nel senso che quello che io lo conosco e so come va, perché quello nuovo va a giocare in granate di plastica, come mi è già successo una volta con un trapano, e c'avevo dei granati di plastica, granate che avevi di metallo, per dire no. Quando l'ho portato poco a poco si è tutto sbriciolato di granate, boh, la pazzio, per dire ero già. Sì, ma l'ho spiegato, per di più, la scelta è tua. Io adesso sono intervenuto, no, ho aperto questo cosa, c'è, ci vuole questo petto nuovo, ce l'ho anche in macchina, mi ha detto, questo petto, perché dopo il momento non ha la matrice, poi ha deciso di cambiare. E mi ha detto, se non vuoi, spendi 200 euro, ho detto, tra ma non lo fare tutto. Se mi garantisci, guarda, sta tranquillo che io non ti voglio fregare, io non ci guadagno nulla perché non sono il proprietario, ti sto dicendo le cose come sono. Si prende la lavatrice adesso, la più buona è a rigolare in plastica. Questa qua è tutto quanto, cazzo, stesse pezzi, per alluminio e cose, il ferro ce l'ha in acciaio, e quello lì è... Non so come abbia fatto, cioè forse tu l'hai caricata troppo la lavatrice, è asfaltato e si è spaccato per quello. Sì, non è così. Oggi i materiali di oggi non sono più come quelli di una volta, li fanno oggi a risparmio proprio. Sarà pure un sistema per poter vendere continuamente loro. Se non dicono, ma questi magari si comprano una macchina, una cosa del genere, e già la riparano e vanno avanti. Invece questa volta, aspetta, allora le faccio, magari hanno anche abbassato come prezzo, perché parlando sempre di lavatrice, dici, come prezzo rispetto a prima, a quegli anni di passati, sono anche abbassate, perché se tu consideri che prima magari una lavatrice ti costava anche 1.200-1.300 euro, oggi con 300 euro, con 350 euro ti compro una lavatrice, però cosa ti dura? 2 anni se la rampi, ecco qual è la differenza oggi già. Avanti oggi. Come dicevo, 1.200 euro. 200 euro erano 15 anni. Non lo sai per chi? Devo raccontare più prezzo, 200 euro, però erano 15 anni. Sì, ma io mi ricordo, ne avevo comprato uno graziano, tutto a quella cifra lì, ed era nuovissimo, e andava bene, molto bene, e poi lui ha fatto la fesseria che se l'ha venduto, perché non mi piaceva, lui era troppo grande, ecco, e torniamo col discorso, come te era lui praticamente, sto parlando di garage Saturneco però, non Turbo, Saturneco, ma era nuovissimo, nuovo, proprio non c'era un grasso, nulla, e funzionava che non aveva. Tipo come quello di Gianni, che funziona sempre molto bene, eppure non mi è piaciuto e se l'ha venduto, per dire, ecco com'è la questione. Ogni tanto la gente fa male anche delle fesserie, sta comprando un baracchinetto che deve essere un carraccio. Boh. Salute e vita, a me, a te, a Margherita. Ciao Carla, meno male quando si mette in testa una certa squadra di giocare da Juve e sa fare da Juve, meno così. Prima aveva un'altra squadra che sa giocare a pallone, ma riesce già mai in Inter, quindi penso proprio che ci sia da lavorare tanto tanto. Buonasera a tutti, comunque a parte il calcio, se no non interessa nessuno. Io il Galaxy Saturneco Turbo l'ho avuto per un bel po' di tempo e poi l'ho cambiato con un'altra radio, con un 140 praticamente, perché lui non se ne faceva niente ai 140, non li dà 100 watt Giulio, assolutamente, ne dà di picco massimo di modulazione, col carne più 3 io ce l'avevo, dava un'ottantina di watt, 80 watt da 80, 85 watt, non ci arriva a 100, a 100 ci arriva se c'è una modifica da fare, allora può arrivare anche a più di 100 watt. È mio, ma sono tutte così, scusa un attimo, così le cose? È perché non sai che ti dico, può fare 100 watt e poi alla fin fine non sono mai 100 watt nella maniera più assoluta, però dipende anche da certe cose, anche da un'antenna, da un tipo di antenna, da un tipo di impianto di antenna, da tante cose dipende, e per cui bisognerebbe misurarle intanto con strumenti veramente professionali, e poi bisogna fare l'impianto d'antenna proprio come si deve veramente. Se noi mettiamo un'antenna buona, anche se è una manta o quello che vuoi, e poi utilizziamo un cavo che è un RG58, che dopo 10 metri di cavo già incomincia a perdere il 50% della potenza, ecco che di 80 watt non te ne, di 100 watt non te ne può dare mai. E lo stesso discorso vale per il 747. Io sono avuto il 747, dicevo 100 watt, poi alla fine cosa devi dire? Arrivi a 180 watt e esagerando anche. Ecco com'è qua. Sì, io ce l'ho 747 lo stesso dentro l'armadio. Non li dà 100 watt, assolutamente da 80, 80, 85, una cosa del genere. Sì Gianni, io guarda conosco bene il Galaxy Saturn, ne ho avuto tantissimi, io dico, prima di quanto potesse piacere a te. E c'è una grande modifica per il Saturn, quello tuo. Non so se te l'ha detto Fabri, che lui l'ha già fatto uno, forse al suo, quello di Marco, cioè uno ne ha modificato. Non c'è bisogno manco di lineare, non è da mettere dentro, è una modifica che si fa all'interno e dà un bel watt con la radio. Io ho fatto passare il watt adesso, guarda il segnale, se va bene, se lo stesso di sempre. No, è più alto, ma sei satiro. Satiro? Certo che sì. Secondo me vicino a me sono 4 km da Edo io. Guarda a vedere, uno per tre basso su Satiro. Comprime la modulazione. Posso dire che è meglio senza. Non so se stai aumentando la potenza o se è attaccato. Però ti disturba la modulazione. Non so se Giulio se ne è accorto. Così già lo raccolgo io già. Sì, beh certo, così va meglio, dai, quando è più bassa la potenza va meglio. Buonasera. Buonasera lì. Buona, non so se ti ascoltate, c'ho stazione di Amide qua. Arrivi, e anche bene. La stazione è lasciata da sciò. Ho detto Eugenio, guarda che Sandro non è sparito, è in giro perché lavora come tutti, ok, però se ti può interessare c'è un simile al Galaxy Saturn Echo che è l'Excalibur, quello c'ha 100 watt, ce n'è uno da 100 watt, simile al Galaxy Saturn Echo. L'Excalibur c'entra l'ala, è un'altra cosa, l'Excalibur è uguale al Galaxy Saturn Echo, ti ho detto, simile al Galaxy Saturn Echo, solo te l'ha detto Gianni, è dorato, molto bello esteticamente, nuovo nuovo, io l'ho visto, e quello c'ha 100 watt. Esatto, mi ha fatto detto simile al Galaxy, però è molto bello esteticamente, quello c'ha 100 watt. Ora, ora, guarda a vedere, c'ha solo 120 canali. Sì, vabbè, ha aggiunto simile, pure il canale non gioco, però, mi muove pure 400 intanto, mi pare ne trattiamo due. Va bene, 120 canali più che sufficiente, cosa devi fare? Va bene, però è molto bella quella radio, molto bella, l'ho vista io, è molto bella. Chi ce l'ha? Sandro. Sandro, quanto la fa? Non lo so, non glielo mai chiesto, noi ci siamo visti prima di Natale e dopo Natale, perché mi ha dato un VU. Lo sto usando io, capito? Nonostante lui sia radioamatore, non lo usa, quindi lo sto usando io. E ho visto anche quella cosa lì. Ma può mettere antenna lì noi, oggi, cazzo non l'hai facciato lui? Ha rotto anche la Gran Prix, cosa? Ma buffone, lo sai se voleva mettere l'antenna lì? Ah, balai, lì dove è lui? Lui? Lascia perdere, non ce n'è più nessuno lì antenne, no. Manco una venne a barare l'antenna. E era buona l'antenna anche. Sono arrivato il maestrale, tutti li prende in pieno lì, vedi. E di fronte al mare, non ne ha più furgone. No, lo stesso lavoro, ma con diversa rappresentanza, non ne ha più furgone. Ok, c'ha la macchina e viaggia in macchina. Vabbè, comunque, baracchino non ne ha più, ma già è presente. Siamo sentiti anche avanti ieri per telefono. Avanti Giulio, riprendi. Ok, sì, ho la macchina sportiva, mi sa da chi ha, così è di nuovo qua. Sì, non c'è solo quella, non c'è quella sportiva, c'è il coso, come si chiama, il SUV. Ne ha altre macchine. Ok, beh. Sì, no, noi ci siamo sentiti per Natale, là. Va bene. No, anche per Capodanno, ci siamo sentiti. Sì. Allora, ti manca immediato. Ehi, Giulio, vedo la serpente, dove è andato? Sì, l'ho visto. Guarda la mia capotata. Allora fa quello che non sta entrando oggi. Ma l'hai sentito al telefono? Sì, la poco farà pure, eh. Beh, sta sul bel così, sì. Va bene, nel bularetto, va bene, lì. Ma sta andando lì là. Turbazione in arrivo da domani mattina, da stanotte addirittura. le bande, acqua, tutta la parte alta, quindi su Sassari. Se tu guardi il meteo ti dice che c'è il sole, vediamo chi ha ragione. No, anche a me su meteo.it al computer mi dà, non mi dà sole, giovedì mi dà sole, giovedì. Allora, domani mi dà parzialmente nuvoloso, acqua non ne ha dato, mentre il retro ha dato acqua per domani. No, a me mi dà tutto il sole, su meteo mi dà il sole domani e dopodomani è un po' coperto, però c'è metà sole e metà natura. Ciao, oggi adesso che ci siamo te ne stai andando. Ciao Eugenio, buona serata. Avanti Giulio. Ok, ciao Eugenio, ciao. Fatti sentire anche domani. Ciao, alle prossime. Vai Massimiliano. Ciao, ciao Eugenio, ci sentiamo alle prossime, ciao. Vai Giocca. Ciao Eugenio, ciao. E voi che ne ho visto la busciacca e compare già l'antenna. Regna Vetli. Quante ci diranno avremmo? Ragnavelli. Ma è? Ma ci vediamo. Non vuoi di sicuro dall'aereo? Se a me, un amico l'ha aiutato a occupare di ruta. Mica basta fargli fare un tifolo e sta andando. Ma se lo fa, in pandemia che lo fa? Ah, no, 35 euro. 30 euro, 40 euro, si può fare già l'antenna, prendiamo di quelle, come si chiama, 27L, quanti già, boh, tu non si è capito come ha fatto il vento a rompere una bumola, nella Mangatia c'è la via di Astronauti attaccata a ringhiera, come gliel'ho attaccata ancora lì, in base vicino a Guidizzani attaccata a ringhiera, si antenna. Radiale centrale? Ma se è rotto il radiale già si può riattaccare il radiale, anche quello centrale ne ho uno, io da 2,75 metri, già pronto, da avvittare alla boomerang, passo boomerang, basta che non si sia rotto il radiale piccolino, quello è un casino. Ciao, ciao. Andiamo mano sulla coscienza, ciao, vai già. Infatti è strano, la bomba è una bella metà vicina, non so come abbia fatto. E vabbè, ma il vento non li rampaggiare, secondo me basta, come basta. Non rispetta nessuno. Senta scoperchiate un caso, eccetera, giura che se non ti trovate. E vabbè. Io sentiremo, ma non mi sembra che quella che c'ha lui la boomerang, c'era quella di Daniele, mi pare che era modificato il centrale, mi pare che fosse uno stilo, uno ne è stato dentro l'altro di alluminio, forse per quello che l'ho rotto, non so, perché la televisione la rompe. Vabbè, comunque sentirò, vediamo, io ce l'ho un radiale comunque lungo di per poter innestare nella boomerang, già filettato e tutto. Va bene, ok, avanti Giulio, riprendi. Ok, sì, volevo fare una chiamata, vediamo se c'è Natalino in ascolto. Natalino, ci sei in ascolto? Fatti un colpo se ci sei. Ci sono, buonasera a tutti, è che stavo controllando questo multimetro, capito? Cosa, rimane l'ascolto. Ti pigliano in urlo, vengono a tagliarti, entra tu quando devi entrare, non ti chiamo più, non rimanere troppo assente, le cose che devi fare tu alle 7 di sera, non le devi fare, alle 7 di sera bisogna modulare. Dai, sta andando, ma se ne via. Ci dobbiamo. Ehi, al di lucido, ciao Natalino, non so se vi ascolti. Ciao Natalino, buonasera, ben ascoltato. Va bene. Adesso stavo guardando anche all'altro coso del meteo già, sempre uguale. Vabbè, sono tutti nuda, tu vieni a prendermi a quell'ora e poi vorremmo fare che cosa. Riprendi, dai. Acqua non è a metro, non c'è acqua per domani. Anche a me mi dà parzialmente nuvoloso. C'è un venticello intorno ai 20 km orari, 18 km orari, ma non è fastidioso. Va bene lo stesso, quanto non piove, noi ci bastano un paio d'ore, non è che dobbiamo fare grandi cose. Abbiamo già tutto pronto, quindi è smontare, riassemblare e mettere a posto. Va bene. Ok, cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, non me la metto più, non me la metto più. Avanti, Giulio. Ok. Il mio meteorologo mi dice, bassa probabilità di precipitazioni domani, 10%, perché significa che non piove proprio. Massima 14 gradi e minima 3 domani. Già va bene, attualmente è nuvoloso, ma è davvero lo stesso. Si possono fare i lavori già, non ti preoccupare già, i lavori si faranno, vado qua. Un lavoro devo fare perché c'è tutto qua a mettere i piedi in stanza, sennò mia moglie si nappa tutto lo barcone e allora è un casino, perché caspita, ci ha messo un po' di pazienza e di voglia a fare questa antenna a Gianni, perché così risparmia i soldi e bisogna farlo. Era da fare domenica e lunedì, no? Però lì da Gianni domenica e lunedì c'è gente che riposa, che fa condominio, cazzo, mamma mia, era un te particolare sul condominio, se era caldo io ha fatto, mi giuro, per quello abbiamo letto, perché stamattina sono uscito presto. E domani mattina ad esempio dalle 5, da mia alza alle 5 e mezza. E fino alle 8 e mezza, 9 meno un quarto sto lavorando, capito? Poi mi preparo, faccio la doccia, mi preparo e alle 10 porto, alle 9 porto il cane e alle 10 passa Gianni a prendermi, capito? Perché sono senza macchina. Anzi, che se cambia quel microfono perché non ti rilancio più, che se rivendi? Arrivi, domani mi tocca il condominio. No, Massimiliano, cambia quel microfono, o cambi il radio o cambi quel microfono. No, gli altri scemi, gli altri schiacciato un po' tutto. No, io non ho capito, cosa hai detto? Sì, stavo solo rivendo. Prima non sai cosa faccio. Lunedì è la festa, stamattina io ero impegnato, sono andato a prendere la coppa della mia voglia a fare una visita. Io non ho fatto niente, se no avrei piazzato l'antenna già stamattina, fino alle 11:30, mezzo giorno non quattro ero impegnato. E allora mi tocca domani. Domani è venerdì, anziché lunedì è giovedì, domani è venerdì. Io riprendete, emozionate siete perché devo lavorare, non vi emozionate. Stiamo ascoltando le tue storie. Avanti, ecco, tocca. C'è la Marco Cono con qua, non l'abbiamo più rilanciato. Marco, ci sì. Se sta uscendo questa qua. E già sto uscendo, ma io come devo rilanciare a Marco Condor che fa un passaggio, poi entra con la bocca piena, poi si allontana, poi deve mangiare, poi deve pulire, poi deve fare, e poi. E poi. Cosa devi fare domani mattina? Lavorare devo, cazzo, lavorare, il condominio devo fare. Arrivi, è zecio. A me mi viene di là, no, ma te tenno. Già lo sai, io sempre. Va lo sai, hai sistemato la foto. Ah, hai visto cosa ti è staccato? Prima di rientrarmi che ci tirano, già cantando i vivoni. Ma per te sono sciocchezze qua. Cosa vuoi che sia? Boh, noccioline so. Oh Claudio, ho mandato la foto del serpente a Giulio. No, serpente, me la Giulio ha venduto. Va bene, se le piaceva. Lo prego. Bello è, quasi ne via. L'ha sentito, Eugenio dice che se ne vuole prendere uno di Garati, però vuole il turbo vuole. Dove è sempre una potenza. E dice non ha bisogno di turbo, sì, quello no. Già ce l'aveva in stazione Claudio, già lo sa che non ve ne ha bisogno di turbo, dice, manco di lineare per bisogno. Quello c'è il lineare sotto la pancia. Tu vedi, quello, quella è una radio, Giulio. Quella dà minima potenza da 30 watt, ok? Alla massima potenza ne dà 120 modulati, con il wattimetro della Kenwood AT230, 120 watt modulati. Sì, l'ho visto. Il 200 GT, GTL, non pare che sia, di X. Sì, l'ho vista. Io so che ci sono. Io avevo, una volta avevo un 5000 di X, sì. Se ricordo, sì, 5000 di X. Mi è rimasto solamente il ricordo, il libretto di istruzione. E quello era una roba di 100 watt allora. Non so se l'avete mai conosciuto. 5000 di X. Io avevo il Superstar 7000 DX che è di Mario Babbo Natale e non me l'ha mai voluto vendere, ce l'ha ancora. Quello lo stesso, il 7000 DX, Superstar 7000 DX, quello lo stesso non è la versione da 100 watt, è la versione da 80 watt, cioè due potenze, media e alta. La media mi sembra che dia una ventina di watt e l'alta ne dà una ottantina di watt, ma bella, è più grande di quella del serpente, mi immagino, leggermente però, non mi ricordo se è più alta, forse come dimensione c'è, ma c'è un dissipatore. Cobra non è un serpente. Ah, ma tu ne avevi anche uno di Sandro, mi pare, un Galaxy, altrimenti volevo la pancia lo stesso. Ah, quello era da 150 watt, una cosa impressionante. Ma quella tua siamo lì, 120 in AM ne dai 200 in banda laterale, no, non c'è Cristo. Io ho messo in 10 metri un giorno, ero a 28.450 mi pare. Ho attaccato l'antenna a 10 metri, ho visto che c'era gente, ho fischiato, mi dava PEP intorno ai 180-190 watt modulati. E non ho fatto il quel con quella radio in 10 metri. Quella funge, Giulio. Lo so, no, ma l'ho sentita io quella. L'ho sentita quando ce l'aveva Sandro e quando poi ce l'aveva Claudio, l'ho sentita, a Puglia, che era una bomba. Se prendiamo a 4 giri di Smith mi faceva fare Sandro da Porto Torre. Forte è una bella radio quella. Solo che bisogna vedere se dà problemi alla TV, perché quando comincia a essere così potente, non lo so, nonostante il coso, il digitale terrestre, non lo so, quando si abita magari così con le case uno vicino all'altro, se c'è qualcuno che si lamenta perché magari va l'antenna tutta buttata male, non tanto questo nel baracchino, ma se c'è qualcuno che ha l'antenna TV messa male, lui, e a finire carica di lui da Dustria, per carità, è così. E va bene, Gianni, quello va bene per te, mi. Non l'ho vista, non me l'ha mandata la Massimiliano, fammela vedere Massimiliano, è quello che mi ha... C'è Massimiliano, cioè neanche uno sa se la mia attenzione, la radio quando è uscita costava 700 euro, forse anche di più, è ancora un grande prezzo, intorno ai 400 euro si rivale, è una bomba questa radio, lineare sotto la pancia già, non è piatto normale, tanto è vero che non senza la basetta sua non lo puoi appoggiare, perché rimane c'è sotto, col dissipatore grandissimo. Fatelo vedere da una parte e all'altra, Massimilia. Fare la foto della pancia e sopra, e il fronte. Bello, c'è frequenzimetro, c'è... è un bella, una bella radio. L'ho avuta io qua, quando Massimiliano stava facendo la voce, avevo tutta la... tutte le radio qua, ci avevo dentro una cassetta, ogni tanto ne prendevo una e la provavo. Niente, è andato mediale, figurati, che problemi c'è sotto. Andate. Sì, sì, dai, guarda già, te l'ho mandata. Quando stavo facendo lavori qua, ne aveva poco grave di roba. Oh, se ne vuoi, ce n'è ancora, amico, io. No, no, gli abbassa. L'ho restituita tutta, mi gioca pintato, me le ho tutte provate, già va bene. Benedì, ce le hai tu conservate, le vuoi buttare a me? vabbè, qua ne sono due, uno, questa e quella lì, le altre sono la scatola, tanto tutte le tenerle, ogni tanto ne tolgo una, ieri ho tolto questo pezzale e ne scappo, e via. Adesso lo devo rivedere un pochino, là. Gianni, vista là. E lì stava guardando. Boh, strano, poi anche il suo pezzale l'avevo provato qua. Con l'MB più 5, con l'MB più 4, col Tanner più 3, andava benissimo. Vabbè, anche quelle vanno usate, se no è un casino. Vabbè. Gianni! Eia! Ma mandate in frontale, voglio vederla di fronte. Come? Sì, le particolari, ma non in frontale. Il frontale è tutto rosso col frequenzimetro, il canale. Tutto rosso. Non è uguale a quello che c'è tu, un'altra K questa. Non ce n'è manco una a Sassari. Manco una ce n'è a Sassari, ma forse neanche in provincia di Sassari ce n'è di quello lì. Manco la mia c'è benvenuta. Il magno non lo fate, ce l'ho solo io a Sassari, perlomeno credo che ci sia. E l'ho pagato 500 euro. Ma già, guarda bene che il frontale già c'è, se tu non l'hai visto questo. Accetta, ma il magno ce l'hanno tutti. Ma questo io penso è in provincia di Sassari, no a Sassari. In provincia di Sassari non ce ne sia neanche uno. Assolutamente. Ma si vede, visto che guarda che attorno della massa basso un po' via, com'è, tutta la parte bassa che ho andato, guarda. La sto guardando. Non conoscevo, bene, non me la fai. Te l'ho mandata io la foto quando era qua, non ti ricordi già, te l'ho fatto vedere. Sì, lo conoscevo già, l'avevo vista anche in vita io, su internet. E che costava troppo. Il mio l'ho pagato 500 euro, immagino, perché è uscito dopo il Magnum S9, è uscito il 980. Gianni, questa radio costa ancora oggi oltre le 600 euro, ancora oggi. Ci credo, costa non poi quelli di americani. Vabbè, comunque sono radio che vanno bene, col microfono suo sembra amplificato il mio. Sì, ma adesso domenica li attacco con l'MB più 3. Forse tu non hai compreso nulla, ma non te ne porto, ti ho già preparato l'assegno, quindi lasciala lì perché me la devo venire a portarmela via. Dici ti vuoi vendere la roba mia, a me? Se la presa a Claudio, credo, l'ho già. Quella lì? Eia. No, quella lì, tutto mi ho preso, ho già quella lì, la mazza delle varia. Cazzo bruciami voi, vai da chi sciuga. Abbiamo fatto un business, dai, già. Vabbè. Aspetta che non ne volevo più baracchini, Claudio, ma torna con i baracchini. Ma io li prendo perché, come le figurine, io li prendo perché quando uno mi dice ce l'hai quello, sì che ce l'ho, ce l'hai quello, sì che ce l'ho, ma non mi interessa, lo prendo e lo metto dentro l'armadio assieme agli altri. Intanto per lasciarle ferme, sto prendendo tutto, ne sto lasciando due, il resto domenica perché non c'ho tempo, tanto sto lavorando. Domenica mattina facciamo colazione e mi porto via tutto. E metto tutto dentro l'armadio. E se no vado io, la ritiro io e poi te la do io. Già vado io. Anzi, deve salire lui. Vero Massimiliano, non mi fai scendere, no? No. Se non c'hai la macchina già vengo io, dai. Ti risparmio anche queste 10 euro. Allora, tanto me le buci in conto, ma te ne vuoi. Vai Giulio, vai, questo è un delinquente, mi Giulio, non ti fidare. Quando vai? No, non credo. No, assolutamente, non ci posso pensare a queste cose, Massimiliano. Massimiliano, vendigli anche il bulldozer, vendigli. Claudio, così se la porta in campagna e fa una campagna di fondamenta, di fondazioni, per fare un'altra casa. Sai perché non gliene vendo giù? Perché sono fa gratis, invece se vado io, a me mi paga. Il pigio l'ho già detto, hai visto? È un delinquente, eh? Un delinquente, poco uomo è andata lì, Massimiliano. Vabbè, va. Pensi che fra poco andrò a preparare che cosa mangiare, ovvio, se no, oh yeah. Sempre mi sembra la gravità, bambù. Sì, mangiare, asciuga, già le 7:20 sono, porca paletta, vabbè, no Gianni, è che io ho una collezione di determinate radio, e mi mancava quella lì, capito, siccome l'ho già usata, provata, è molto bella, e allora va bene così, però giusto da mettere dentro l'armadio, Se la uso in qualche palazzo, la radio di Giulio fa guai, sono radio più potenti. Sono più potenti del mio 440. L'ho provato, fatto, no? L'ho usato tranquillamente, col Time più 3, col Mavi più 4, più 5, non disturba niente. Cosa disturba? Ci vuole l'alimentatore, perché assorbe, non c'è una potenza, assorbe di bari 25-30 ampere, però siccome io ho ce ne ho due da 60, Massimiliano addirittura ne ha uno da 120, quindi già va bene. Natalia, hai finito di fare, vuoi entrare? E me ne è passata la gana. Ehi, a potendini. E cosa ci vuoi fare? Vedi anche quello che aveva Natalia, un bel bello. Quello ci aveva, quante volte ci aveva quello lì lo stesso? Beh, e anche l'altra che avevo, il 440, chi se ne da zia Ombero Mazzetti, mi già la vita Gianni Pompendi. Italiani Buffen, l'ha già fatto pure un collegamento la casa due con quella. Non te ricordi che avevo modificato, io sempre quella c'ho me. E questa qua è sempre quella lì. Solo ogni tanto da sedi di mancamento, ma che le bassa la macchina. L'ho tutta ripulita con la trenina all'interno. Evidentemente c'era qualcosa sopra la parte del VCO che stava dando fastidio. No, sto dicendo il baracchino, quel baracchino che avevi tu, che si regolava, che aveva anche l'eco, che baracchino era quello? Un magnum quello, era più forte del quello che ha Gianni, il modello più piccolo, quello che avevo io era tremendo, ne avevo due di quelli. E che magnum avevi tu, Natalia? Perché io ce l'ho contata. Avevo, adesso non me li ricordo perché me li ho venduti tutti e due. Quello che avevo io pompava a velo. L'S9 no, è quello più piccolo, quello che dava meno va. E infatti non c'ho l'S9, c'è il 980. Ehi, ma 50 watt dal tuo Gianni, quanti watt da? L'S9 tu. E io c'aveva l'eco, c'aveva tutto. Ne avevo due di quelli. watt dà il tuo Gianni? 80, 50, quanti watt dà? Mi manca la serata, il coso in AM da una trentina di watt. 80? Una trentina, 30, 30. Ah sì, è la versione da 30, mi pare 60, 70, e manda laterale, sì. No, voleva Natalino, se in AM era più di 50, l'ho visto io. Ma la laterale si provava anche 100. Però era, forse era modificato, non lo so, ma un bel forte era, un bel. No, questo è originale, il Cobra di Massimiliano è originale, è nato così, proprio con questo lineare che sotto la pancia, dissipatore molto largo, già l'hai visto, è nato così, non ha nessuna modifica. C'è un frequenzimetro e il rosmetro incorporato. Avanti Giulio, riprendi. Oh, io inizio a prepararmi, che sono le 7.25, dai. Già sono qua comunque. Ok. Sì, no, ma io l'ho visto, ho mandato la fotografia, l'ho visto, c'è un bel dissipatore, bello teccio, perché già si vede che c'è una grandissima potenza in quel baracchino lì. Bene, bene. Tatami, e quello è il presidente Lincoln, ancora ce l'hai tu, quello che aveva dato a quell'amico tuo lì di Via Torso. Che ce l'ho io, ce l'ho quello. Canali, ne ho. Ok, ho capito, vabbè, meglio così, Non pensavo che ce l'aveva sempre lui quello, perché ce l'aveva dato, non so, per un po' di tempo ce l'aveva sempre lui, ce l'aveva, ma sapevo che era il tuo comunque, già me lo ricordo bene. Bene, avanti Gianni. Ma Claudio, quello che c'è tu, quello che c'è tu, quello che c'ho io? Il 440 era quello di Natale? No, questo era il mio, è tornato a me, ma questo l'ho preso dopo che avevo dato a Franco, California, quella che adesso c'ha Giulio, e più o meno mi tornano tutti, no, quella che avevo io è praticamente quella che ti ho mandato la foto, capito, che l'avevo data, adesso è ritornata a me, no, quella Natalino, a chi l'avevi venduta, tu Anello Magattia l'avevi venduta la tua Natalino? No, a Capri 2 l'avevo data, e dici che l'hai barrata, boh. Chissà si era una radio, cazzo. Allora ce l'hai data a Gianni Capri 2, ce l'ha Roberto Quadratto, ok? Ce l'ha Roberto, gliel'ha comprata Roberto, e questa che c'ho io l'ho presa da Roberto, capito? Abbiamo fatto un giro, però questa è la mia, questa è diversa da quella perché c'è la scheda Phoneme, l'ho riconosciuta subito e poi me l'ho detto che era la mia, quindi. E poi ne ho un'altra da vedere alcune cosette, sempre nuova, e poi c'ho il 430. Adesso molto probabilmente devo fare un cambio con una radio VU base, perché ne ho 4 di quelle. Lui o quasi un radiomatore di Alghero mi dà un 140, così c'ho 430, 440 e 140. Io purtroppo mi devo accontentare di questo, non ne posso avere altri. Capito? E paghi sui me ne fratelli ragana. E vabbè, non cominciare adesso di nuovo con i trick e ballacche. A tutti dini, per fare due chiacchiere va bene anche quello. Ok, è andata così, pazienza. L'importante è che ci siamo, ci sentiamo e andiamo avanti. Vai già, oh Giulio, riprendi tu, dai che mi vesto, sennò Filippo mi piscia i piedi. Claudio, lo sai che ce l'ha il 140 buono, che sarebbe quello che avevo io, che ho venduto a Marco Tondo, poi Marco Tondo l'ha venduto a Benito Alba. Quello lì non lo sta usando, magari se ti serve un 140 chiamalo, Benito. Benito, c'ha tutta la linea, gli ho dato colonnina esterna e AT200 e AT250 e non la va perché ha detto che già se la rimette l'antenna. No, non me ne serve a me, cosa mi sirvi? È che faccio un cambio, mi hanno proposto un cambio con un radioamatore, anzi veramente mi ha detto, ma lo vendi quella radio? Io ho un 180 grandissimo, la Kenwood, capito, molto bello, ma grande quanto è 940, e non lo uso, lo accendo, però non lo uso perché ne ho altre di un po' più piccole, sempre base. Comunque mi ha detto, ma lo vendo? Ho detto no, a vendere non te lo vendo, c'hai qualcosa a fare cambio, non un 140, va bene, mi va bene anche quello. E ci dobbiamo vedere adesso dopo le feste, ma penso che forse per fine settimana o la prossima settimana vado ad Alghero e me lo prendo, capito? Giulio! Ok, sì. Allora ti tocca di mettere di nuovo la seconda parte del banco, ti tocca ripiattare qua, così almeno hai di nuovo un banco completo. L'hai rotto, la metà è una di buona, devi fare giugni con tutte queste radio. No, già ci stanno, già ci stanno, e ne ho, l'hai vista la foto, già ne ho. No, l'altra l'ho tolta perché la verità, volevo fare dei lavori di avvolgibile contro i fissi eccetera, e quindi mi dava fastidio, siccome è facile, la piattata tu già l'hai vista, ho tolto la contropiastra da sotto, ho piegato i piedi e l'ho tolta, quindi la posso rimettere quando voglio, e ho visto che la tazza c'era più posto, più tutto, ho detto beh, adesso la porto sui mansarda, e l'ho portata, le ho messo una busta di quelle grandi per non graffiarsi, l'ho portata sui mansarda, e le radio che c'erano in quella base lì le ho messe tutte dentro l'armadio, capito? Anche perché non è che le stavo usando. C'è più posto, Giulio, c'è più posto anche per mia moglie, no? I vetri dovevo farli io perché dietro non volevo che passasse che c'erano i cavi, capito? Invece adesso mi pulisce i vetri, lava bene per terra, prima era un casino, lo devo farmi tutto io qua. E poi insomma la lascio così perché prima o poi ne ho già smontata pulita, la casa è in vendita, quindi prima o poi dovrò smontare anche questo. Massimiliano non c'è più. Sì, sono sempre qua, in ascolto. Riprendi, fai girare che mi vesto, vai. Anche io tanto lì adesso mollo altri di un paio di passaggi e vado a preparare qualcosina, sono a ballo. Giulio, ma ti stai rimettendo su questa? Come mi sono? Non ho capito. No. L'antenna, no, assolutamente. No, non l'ho voluta far vedere perché ho sempre detto che è nuova la mia antenna. E non ho fatto una cosa per far vedere com'è. Hai visto dove c'è la bobina? O Massimiliano? Hai visto quel incavo che c'è, quella specie di taglio che c'è nel tubo di alluminio dove entra con la bobina? E lì, il problema era lì, che quando si sposta, quando si ossida magari con la punta lì, adesso l'ho tagliata comunque, non si dovrebbe ossidare più, adesso mi ha passato una passata di taglio con il sanatore in quella punta lì, e dunque dovrebbe fare sempre bel contatto, ma suppongo che l'alluminio magari potrebbe anche ossidarsi e magari non fa contatto, e allora il discorso che facevo io era sempre quello, che non era corto e circuitata, il motivo era quello. Perché? Perché manca il contatto perfetto lì, ecco com'era. E cosa fai poi? Te la vendi, tanto se usi quella, Dio cosa ne va lì? Allora me la vendo, cosa mi dimostro lì? Cosa mi la vendo a fare? No, la tengo e basta, anzi adesso lo voglio montare anche lo stilo centrale, che ce lo conoscerò con il cazzo su nel poggiolo della mansarda, ce l'ho con il cazzo, perché è sempre tutto intero, no? Il poggiolo è abbastanza lungo, ci sta benissimo. Pensa che c'è anche il funghetto ancora in punta, c'è quel funghetto che danno con l'antenna, eccetera. che così lontana, speriamo che non arriva in Italia, ma non credo però. No, se non riesco a montare la sentiera. Ma l'intenzione mia era quella riscaldata un pochino con la cosa che per caso dovesse esserci necessità di farlo, per poter svuotare le cose, no, gli elementi. Perché già due anni buttata così nel coso, ma è sempre nuova, nuova, è nuova, lucida addirittura. Ma io sinceramente parlando l'avrei piazzata, l'avrei sceso un capo, anche un 58 così veloce, e avrei messo due radio separate. Ma il discorso io l'ho tolta per il fatto del vento, ma la notte che fischia nei radiali o massimiliate, non l'avrei lasciata. E capita, andava benissimo, andava l'antenna. E l'antenna era in alto, proprio, però quando c'è vento forte fischia la notte. Va bene l'estate, perché l'estate diciamo che difficilmente ci sono giornate di vento molto forte, ma d'inverno o con il vento anche di quel periodo scorso l'antenna avrebbe fischiato e la notte era fastidio, perlomeno a me mi dava fastidio. Va bene, dai signori, io vi lascio e vado a fare qualcosa qua, va? Se no saluti di nuovo a digiuno. Dai, ci sentiamo, Giulio, Gianni, Claudio, Natalino e chi fosse l'ascolto del canale 10. Dai, riprendi tu Gianni e ci sentiamo. Vi saluto, ciao ciao. Ciao Massimili. Ciao Massimiliano, buona continuazione di serata. Cucina roba buona. Avanti, Natalino. Sì, ciao Massimiliano, buon proseguo. Riprendi qua. Io per salutare Massimiliano, ci sentiamo. Ciao Massimiliano, prossimo, dai, ci sentiamo. Vai Claudio. Eccolo qua, ciao Massimi, ci aggiorniamo, vai. Vado a portare il cane, a dopo ragazzi. Dove andate? Ma non è che sta taglia di sotto, qualche vento, ma si sente fortissimo. Questa qua, il phon, asciuga capelli. Ah, ecco, così prende la sciampo umana del verde. E va bene, allora sì, no, ma si sente moltissimo il faccio. Va benissimo, là. Buona passeggiata allora, se stai portando il cane. Va bene. Avanti, Natali. Sai, io faccio QRT e devo fare qualcosa anch'io, se no siamo a digiuno. Ah, ok. Natali, togli buona priorità. Tutto a posto? Voglio dire, per quanto riguarda il vicino, eccetera, tutto a posto, tranquillo? Non sono più scocciato? No, non mi scocci, no. Adesso, se mi scocciano, vado all'avvocato, capito? E là mi pagano. Ok, no, ma non penso. Certo, mi avrebbero già detto, Natali. Vuol dire che sta andando bene, tranquillo. Vabbè, comunque, anche io ti dico quello che ti ha detto con la poc'anzi. A tutti i dini, se non hai grandi apparecchiature, o meglio perché non li puoi avere adesso in questo momento, visto considerata dove, nella posizione dove abiti, eccetera. No, a tutti i dini, il barattino va benissimo quello, ci sentiamo ugualmente, perciò fatti sentire, ok? Già lo so, l'ho preso apposta per quello, perché quelli che ti vedono mi hanno detto che potevo parlare, dopo se richiamano controllano a loro, e gli strilletti si picchiano, e se mi dicono qualcosa mi rivolgo all'avvocato questa volta. Ok, sì, no, ma non credo che disturbi adesso, dai. Con quello monolato non credo che disturbi. Sono così, dai. Vabbè, dai, lo stai, se stai chiudendo, ti saluto, ora ci sentiamo domani eventualmente. Ti passa Gianni per i saluti. Avanti già. Sì, ciao, ci sentiamo domani, dai, domani mattina. Capaga. Andrà bene, buona continuazione. Avanti, e chi è rimasta, insomma. Io sono rimasto e basta, tutti altri allontanati. Natalino sta chiudendo, Claudio sta portando il cane, Massimiliano la anche lui, evidentemente hanno tutti la fa. Ma Marco, ci sei? Attenzione Marco Cotto. Chi è? Avanti. Figurati se Marco ha voglia di parlare. Oi! Così così che non muove tu a Marco. Marco! Avanti il fischio, chi è il fischietto? Che ha mangiato tagliola. Mangiate tagliola, bubu. Cos'è? Tagliami lui quasi. E va bene già, adesso hai di nuovo il garage, è stato un ecco funzionante, sei a posto, sei tranquillo, va. Già va bene, non ci sono problemi. Ultimo, ultimo per la truppa. Cazzo, te l'ho tomato bici qua, insomma. E vabbè, sono un po' sincero, va. Ehi, aspetta un secondo che ti mando una cosa. Ok, manda, manda, sono qua. Guarda quel pinguino, poi videlo la battuta tuo. Che diceva che non si faceva, non so che cosa. Oh, yeah. Giulio, l'hai visto? Sì, che ho visto. Ma non è che coglie che sono. Sta anche cantando, li ho sentiti, Gianni. Io cantavo cantando e li ho sentiti. Sì, ma quelli sono i genitori. Allora, Davide mi ha detto che non si facevano la scopa e questi qui sono nati fuori stagione, ti spiego. Allora, io non li ho messi i nidi. E cosa mi hanno fatto? Mi hanno fatto un uovo dentro il contenitore dopo gli metto la verdura. Ne ho messi i nidi e tutte le cuffie che ho hanno fatto le uova. Questi sono nati per prime, adesso devono lasciare gli altri. Ne ho 5 in uno e 4 nell'altro. Anzi no, 3 in uno e 4 nell'altro. Questi erano 5, sono nati. Cazzo, che curiose che sono! Bene, va bene. Dimmi che questi sono la produzione di Gianni, adesso ti dirà è fuori stagione, non si fa, questo e quell'altro. Ma Davide si deve un po' informare, perché allora ci sono degli allevatori che prolungano la luce, siccome devono prendere 13 ore di luce e loro vanno all'estero, ce l'hanno, quando prendono 13 ore di luce come d'estate. Quindi cosa ho fatto? Mi prolungo la luce alle 5, fa buio, li accendo la luce, li metto dentro casa e li prolungo la luce. E così ho fatto sì che nascessero, capito? Ma non c'è niente di cosa, non sei contro la natura, perché tanto le uova me le stavano facendo lo stesso, quindi è inutile che non li metto un nido, per cui perderme, capito? Ho capito, sì. Bene, va bene. Quali sono? Che uccellini sono quelli? Canarini sono, canarini di razza. Canarini di razza, così hai detto? Sì, si chiamano... quelli si chiamano, aspetta, timbranos spagnoli sono. Ah, ho capito, sì. Aspetta. E questo è quando li ha accattato, che l'ha fatto l'attimo quando l'ha accattato, appena nati oppure hanno qualche giorno? Oggi l'ho scattata, oggi, perché sono allora praticamente sono nati un giorno, non l'altro, solo in 5 giorni sono nati 5, capito? Perché ha fatto le uova una dopo l'altra. Ah, non ho capito, capita! E poi lo trigo naturalmente li nutra la madre, così. Mi danno il telefono lì. Ehi, oh Giulio, dai, io ti lascio che sono venuti a prendermi escendo col cane, dai. Ti saluto, scusami, ma è già tardi, dai. Non mi era proprio che era così tardi. Ciao, ci sentiamo, buona serata, domani. Ok, ciao, a domani, ciao. Alle prossime, ciao. Allora, se picchio, chi è? Si picchia, ma che sento? Stai parlando ma non si sento. Chi è avanti? Vuoi parlare sì o no? Sì, vabbè, giocati con la burba, che è la bipì.